Siamo con Anton De Guglielmo per parlare di Babele, prima della fine, teatro, musica e performance allo Spin Time Labs a Roma il 1° giugno. Anton, benvenuto e ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti i radioascoltatori, ciao. Ci racconti un po'? Ma volentieri, allora ormai ci siamo, mentre io sono qui al telefono con voi, gli altri ragazzi e ragazze del collettivo si stanno adoperando per allestire e fare le prove tecniche in vista di domani, 1° giugno, che diamo il via al nostro evento che si chiama Babele, prima della fine. Ed è un evento che intercetterà performance, spettacoli di teatro, di musica e di performance live, oltre che installazioni e installazioni video, negli spazi dello Spin Time Lab. Per chi non lo conosce, è un'occupazione nata 5 anni fa nel palazzo dell'ex IPDAP, e l'ingresso sarà su via Statilia. Questo in due parole l'evento. Sì. Come avete messo insieme questo gruppo di artisti? Guarda, è partito tutto da il Loco Teatro, credo che bisogna dare merito di questo loro impegno, che sono stati i primi ad attivarsi nello spazio dello Spin Time Lab e a iniziare con calma e impegno ad allestire degli spazi prova in un luogo molto ampio e quindi da rigenerare, questa è l'idea dello Spin Time. Il Loco Teatro, che è formato da Roberto, Dario e Anna, che saluto ovviamente, e da loro è partita una costruzione, diciamo un po' di un collettivo, vecchia maniera, come si diceva una volta, che immaginiamo che si potrà chiamare Spin Art, che ha convogliato vari operatori, attori, varie figure del mondo dello spettacolo, del teatro soprattutto, con cui vorremmo ideare e costruire per la stagione prossima una vera stagione teatrale nell'auditorium che è stato allestito all'interno dello Spin Time. Per fare questo, per arrivare diciamo a settembre, ottobre, con il lancio di questa programmazione fissa, abbiamo pensato di fare un primo lancio dello spazio per far conoscere proprio l'ambiente e abbiamo ideato un evento che potesse raccogliere varie partecipazioni, come appunto l'evento di domani di Babele, e che permettesse al pubblico di gironzolare, divagare all'interno di alcuni degli spazi dello Spin Time, che è un luogo ampio, complesso, labirintico, e quindi scoprire al tempo stesso il nostro progetto culturale e lo stabile, il progetto di rigenerazione dello Spin Time. Ok. Senti, Anton, come sarà organizzata la giornata? Ah, guarda, apriremo alle 18 al pubblico dall'ingresso di via Statilia. Ci tengo a precisarlo perché ci sono due ingressi. Sì, E per sì. semplificare, avevamo l'ingresso a via Statilia alle 18. E con un ingresso si potrà accedere a tutte le performance, a tutti gli spettacoli che sono stati inseriti nel programma. Quindi si verrà muniti di un programma e attraverso le maschere e gli organizzatori ci si potrà districare all'interno dell'ambiente, intercettando le varie performance. Alcune di esse, quelle che nel programma leggerete come a prenotazione, avranno dedicate un piccolo desk dove il pubblico potrà prenotarsi perché saranno collocate nei sotterranei dello Spin Time e quindi sono per un numero ristretto di pubblico e anche saranno accompagnato il pubblico da una delle nostre maschere. Quindi sarà necessario prenotarsi lì per lì, ovviamente non prima, e per poter ancora di più immergersi nei meandri dell'evento e dello Spin Time. Benissimo. Allora ti chiedo in chiusura tutti i riferimenti web per saperne di più sulla programmazione e poi ti chiedo anche se state anche costruendo un altro evento a ridosso dell'estate o tutto è rimandato, insomma, alla nuova stagione. Allora, i riferimenti sono ovviamente il nostro evento Facebook, che al momento raccoglie tutto il programma e le evoluzioni. L'evento Facebook si chiama Babele, prima della fine, teatro, musica e performance live. Tutte le comunicazioni sono anche date direttamente dalla pagina Facebook, sempre di Spin Time Labs. Al momento ci concentriamo su questo evento, ma stiamo già buttando giù le basi per una programmazione a settembre, quindi per l'estate probabilmente ci fermeremo qui. Ok, un abbraccio in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie davvero, viva.